Italia in controluce. Italia in controluce racconta ogni giorno le storie di cronaca italiana, i casi di nera e di giudiziaria, la cultura, il costume, lo spettacolo, attraverso le inchieste e i reportage narrati sul campo. Buongiorno e buon pomeriggio a tutti da Daniele Biacchessi. L'unica traccia di oggi ci porta fin dentro agli stadi di calcio tra i tifosi organizzati. È un viaggio tra gli ultra del calcio. Dario Ricci. E strade su strade, poi strade. Arrivammo a Genova. Una sfida che rischia di essere guastata da questo gruppo di facinorosi, di teppisti identificati come tifosi serbi che continuano purtroppo a lanciare in campo bengala, fanno scoppiare petardi all'altezza della gradinata nord, lanciano oggetti di ogni tipo in campo, bastoni e persino seggiolini. L'arbitro, dopo il secondo lancio di bengala, ha deciso di chiudere definitivamente la partita perché ci ha detto che non riteneva più garantita la sicurezza dei calciatori. Hai rovinato la serata, bello sei! Eccolo l'uomo nero, il manette. Si chiama Ivan, è il capultra serbo che ha terrorizzato Marassi ieri. Doveva essere una partita di calcio. Invece il 12 ottobre, allo stadio Marassi di Genova, Italia-Serbia si è trasformata in una manifestazione di forza dell'universo ultra. Il simbolo è l'uomo nero Ivan Bogdanov, l'ideologia quella nazionalista che pervade le curve dell'est europeo, la rete logistica ramificata e complessa. L'inchiesta segue la pista delle connivenze coi gruppi ultra di Hellas Verona e Vicenza e le scritte che inneggiano a un Kosovo ancora serbo sui muri delle strade intorno al Palalido a Milano sono la firma del passaggio di Bogdanov e soci nei giorni precedenti la gara di Genova. Daniele Poto, giornalista, autore del libro Le mafie nel pallone. Sicuramente c'è stata una collaborazione occulta, è una collaborazione occulta di una specie di grande cartello malavitoso degli ultra, quasi una globalizzazione degli ultra. Del resto i fatti di Genova richiamano per strategia e risultati episodi ben noti anche sui campi nostrani. Mi ha ricordato un po' la famosa partita dell'Olimpico, il derby Roma-Lazio, sospeso per quella fantomatica uccisione di una bambina con i capi tifosi in campo a condizionare Totti, l'arbitro e persino il ministro dell'Interno. Da Belgrado a Genova fino nelle curve dei nostri stadi, l'universo ultra sta cambiando. Nel mix tra politica e tifo cambiano i riferimenti ideologici. Ancora Poto. Indubbiamente, voglio dire, Arkan, la tigre ricordata da Mihajlovic e da Stankovic nel giorno della morte, con gli striscioni che omaggiavano Arkan, ha lasciato, devo dire, purtroppo un'eredità in questi tifosi che non hanno storia, che però, voglio dire, vogliono contare e con atti clamorosi andare sulle prime pagine dei giornali a tutti i costi. Stesso passaggio di consegne nelle curve italiane. Carlo Balestri, responsabile del Dipartimento Internazionale della WISP e curatore del progetto Ultra. Mentre negli anni 70, anni 80 c'erano molti più gruppi che si ispiravano a parole d'ordine, a slogan di sinistra, dagli anni 90 fino ad arrivare ad oggi invece la tendenza è quella inversa, per cui ci sono più gruppi che si ispirano più a slogan o a parole d'ordine di destra. Questa permeabilità però spesso è data dal fatto che è la nostra società che è andata più in questa direzione, per quello si vede nelle periferie di Roma come nelle periferie di Milano, quelle che una volta erano le piazze per antonomasia, non so, di una sinistra popolare, sono diventate invece luoghi dove magari la destra adesso attecchisce di più, la destra o l'estrema destra e così via, o magari nel nord la Lega. Ideologia e organizzazione viaggiano però ora più facilmente sul web che allo stadio. Maurizio Marinelli, direttore del Centro Studi sulla Sicurezza Pubblica, ci spiega il perché. Non esistono più delle tifoserie o dei gruppi dei tifosi o di ultra, chiamiamoli come vogliamo, perché soprattutto c'è la volontà del tifoso di non essere identificato e identificabile. Quindi c'è un ricambio molto forte nelle varie curve e quindi c'è uno smembramento di quello che erano i gruppi storici, i gruppi che esistevano nelle varie curve. Da Milano alla Sicilia cambiano però i comportamenti, le strategie. Basti confrontare quanto accade a San Siro e all'Olimpico di Roma. Ancora Carlo Balestri. La realtà romana è una galassia di gruppi più o meno piccoli, abbastanza anarchici, comunque ben presenti e capaci, insomma, di organizzare in certi momenti una coreografia, in certi altri una trasferta ed altre, insomma, di passare attraverso dei tam-tam più informali. Invece i gruppi magari del Milan o dell'Inter danno l'idea ancora più di compattezza, comunque sono un po' più classicamente legati, insomma, alla struttura del tifo, un po' più organizzati. Gruppi poco numerosi, pronti ad agire, ma anche manipoli agguerriti che possono diventare strumenti di controllo di intere porzioni di stadio e quindi di società. Sentite cosa accade al San Paolo di Napoli nel racconto di Daniele Poto. Un esempio è lo stadio di Napoli, dove addirittura è provato, e naturalmente ci sono rapporti della polizia e della DIA, dove ogni piccolo settore della curva, praticamente si può leggere uno spaccato dello stadio di Napoli come affiliato di volta in volta al clan di Secondigliano, a un particolare clan camorristico, e naturalmente in quella situazione veramente degradata non puoi vendere una birra, un panino con la porchetta se non appartieni, se non sei affiliato, se non hai un riconoscimento malavitoso. Versione confermata in aula dal collaboratore di giustizia Emiliano Zapata Misso, nipote del boss Giuseppe, che ha descritto i rapporti tra gruppi del tifo organizzato della Curva A e il clan Licciardi e quello degli scissionisti durante il processo in corso al Tribunale di Napoli per i disordini scoppiati a Pianura nel 2008. E nelle serie minori lo scenario non cambia, anzi. In almeno 8 comuni del Salento c'è una cointeressenza malavitosa tra il vertice delle squadre calcistiche e proprio, diciamo, la Sacra Corona Unita organizzata, con elementi di spicco che sono presidenti o rientrano nell'organigramma. In paesi come Poggiardo, Racale, c'è sicuramente la possibilità di controllare il territorio e di indirizzare persino il mercato dei voti quando c'è da gestire un'elezione. Per cui, voglio dire, un presidente di una squadra di calcio è più importante di un sindaco e si può immaginare questo dove ci porti. Controllare un club, poi controllarne gli ultra. Il passo successivo è solo la logica conseguenza. L'esempio che facevo del Potenza, in cui un presidente stesso gestiva delle agenzie di scommesse e indirizzava i risultati della propria squadra, quasi se avesse voluto diventare presidente solo per esercitare questo potere, è emblematico. Postiglione, presidente del Potenza, aveva costituito, da una rivelazione abbastanza recente, un fondo nero custodito nelle banche di Monte Carlo, che era proprio un residuato di proventi di questo indirizzamento malavitoso delle scommesse. Gli investigatori hanno trovato un pozzetto di 150.000 euro. Quelli che nell'universo del calcio minore sono reati penali e civili, al vertice del movimento diventano inquietanti segnali di contiguità tra vertici dei club e capipopolo della curva. Ancora Carlo Balestri. Gagliani, da una parte, in maniera schizofrenica, ha denunciato i rappresentanti dei gruppi ultras per un eventuale tentativo, come dire, di estorsione. Dall'altra parte, non più tardi di 6 mesi dopo, è andato alla cena organizzata dagli stessi gruppi. La risposta più fragorosa a questo stato di cose finora è stata l'introduzione della tessera del tifoso, ma il rischio è quello di offrire un facile pretesto al mondo ultra per coalizzarsi contro le istituzioni senza risolvere, ma solo nascondendo, i problemi reali. Mi sembra che sia un'ulteriore norma che ben rappresenta comunque lo stato del calcio del paese in Italia, che tende a criminalizzare il mondo del tifo organizzato piuttosto che fidelizzarlo. Non sia questa la strada per riportare le famiglie allo stadio. Serve quindi una strategia sul medio periodo e un mix di interventi legislativi, culturali e sociali per poterci finalmente riappropriare delle nostre curve, dei nostri stadi. Maurizio Marinelli. Accanto a quello che è il discorso normativo e legislativo, ci vuole sicuramente la famiglia, ci vuole il coinvolgimento della scuola, il coinvolgimento degli oratori, perché altrimenti sarebbe tutto fallimentare pensare che una legge possa risolvere il discorso all'interno delle curve. La seconda edizione d'Italia in Controluce, sul nostro sito trovate tutte le nostre puntate, radio24.it, Radio 24 Italia in Controluce su Facebook, in Controluce su Twitter, la mail controluce@radio24.it. Ringrazio Filippo Oreggi per l'editing e il montaggio. Torniamo domani 6:30 su Radio 24.